Ho visto che sei incurvita. Sì, è vero, non va a cambiare la cosa. Accenda al muro, va. No, cretino, un imbecille. Non ne sono mai viste. Non gli dare più niente. Ma non gli dare più niente. Ma non gli dare più niente. Ma non gli dare più niente. Mettelo qua, io. Ma non è andata nonna? Dice, parlate del Santo Natale. Tutti hanno detto, a casa mia è Babbo Natale, a casa mia sono nelle campagne. Pierino, tema. Parlo del Santo Natale. Natale c'ha le palle coi figli. C'è Natale. C'è Natale. Ma come c'è? Ma che sta a dire, Pierino? Ma Natale non c'ha le... Ma le palle dell'albero di Natale sono senza peli. Ma costano. Allora Natale sa... Pierino cazzo, Natale, cale dei cazzoni. Era quella dei giuliati, no? Ma non è un maiale. Ma non è un maiale. Come fa un maiale? Il tuo miele. Il maiale, qualcuno è mio. Maiale, hai messo in sicurezza, no? Dottore! Se vuoi dare. Ah, mangiamo le maiale. Ma il tuo vigile dentro, notturno, un becco, mo aspetto io, spegni la luce, mi Natale, c'è inchioda 4, 5, l'elefante, ma perché sta facendo l'elefante? È bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, Che porco? Appena Fabri, menù è ecclesiastico, ossa di pesare andare a no, quello che non voleva la data a me, ma tu lo volevi mette non la cucina la cucina la gente non ti fa nessuna parte ma si voleva la prima volta vieni, c'è la tua mano grazie, è troppo aiuto lo trovo molto più sfacente. Sì, per carità. Diventa più grande. E aspetta che si ambienta. Il processo è diversamente Grimilde di Manatta! Questo! Mi diversamente proporzionale il processo. Signora Fonti in Geroni. Il mandarino! Uno! Attenta alla testa, no, eh! No, che non c'è? No, anche! No, anche la frutta! Tu ti sei mangiata la frutta! Ah! Ti ha preso! No? Prugna si che! Ah, la frutta! No! Ah, c'è sta il salame, questo è così! Cosa fatta il buon orecchio? Non si fa la bella! Non si che manca a voi! Ah, questo fa la chicco! Chicco! Quando è chicco? Chicco! Chicco! Chicco, devo le mamma! Mamma! La vuoi un sì, là! Chicco! Chicco, l'uva, dopo! Qui tutti fanno la schedina, la lasciano qua, io mi gioco tutto l'anno. Vediamo che succede. Non ti chiude da. Domenica Lazio Roma. Battetegli le mani, va! Questo è tutto quello che mi ha aiutato!